rendo più lieti, sarò breve, la cena incombe e abbiamo, credo dopo di me, un intervento importante che riguarda quello di Alice Boni, che riguarda la realtà locale di questa frazione importante della Lombardia, credo. Importante, poi magari credo che dalle cose che dirò e da quelle che sono state dette stasera è abbastanza chiaro il perché. Partivo da Marti Baldi. Marc all'inizio, proprio se ricordate, leggeva la disattenzione di una certa sinistra, anche quella meno ortodossa, quella non organizzata nei partiti, quella che un tempo si chiamava extraparlamentare, per questi temi, una coscienza che poi abbiamo chiamato diversa magari su altri versanti, ma che abbiamo chiamato ambientalista, e altro ci ha messo all'interno del corpo grosso della sinistra, ci ha messo decenni, se non pezzi di mezze secolate, ad affermarsi. Questo è sicuramente vero, tanto è vero, scusate il gioco di parole, che quando ci siamo imbarcati in questa avventura di Critical Wine ci è stata proposta, e quando dico ci parlo anche credo a nome del centro sociale nel quale continuo a lavorare, anche si è reso visibile insomma in questo tessuto un po' strano anche da parte di alcuni maestri di pensiero di questa sinistra eterodossa, quelli che scrivono sul Manifesto e magari ancora con più disattenzione su Liberazione, c'è stata quasi una simpatica ironia di accoglienza su questi temi in quei luoghi, ma in generale credo su questo tipo di vicende, quasi una presunzione di carattere intellettuale, fattore poco essenziale dentro le grandi questioni della politica, comprese quelle della globalizzazione. Certo, questo è vero. È vero che questa disattenzione, ci ricordava Pino Tripodi, è una disattenzione un po' più generale, non ha riguardato soltanto, voglio dire, il mondo ampio ma non amplissimo di questa sinistra, ma è un portato storico dei partiti, anche quelli più strutturati, più organizzati della sinistra tradizionale. Se la trasformazione avviene nelle aree metropolitane, le masse operaie sono i levatori di questa grande trasformazione del Sol dell'Avvenire, dove questo si realizza nei processi di urbanizzazione. Al massimo le masse contadine ce le ricordiamo in tempi molto antichi, quando i soviet erano organismi dei soldati, dei contadini e degli operai. Strada facendo, delle due categorie è rimasta solo una, e anche questa credo subisca le trasformazioni. Perché dico questo? Perché siamo, io credo, invece alla vigilia di una, e siamo dentro in realtà, già ben dentro, una ripresa di attenzione sulla particolarità. Certo, i grandi temi di carattere globale, i grandi movimenti globali che hanno attraversato il pianeta da Seattle in poi, li hanno rimesso nell'agenda della politica. Però c'è anche un portato grosso di trasformazioni che riguardano le nostre, la nostra organizzazione del lavoro, il modo in cui lavoriamo, la trasformazione di quello che un tempo e un po' dogmaticamente si chiamava modo di produzione, e credo che sia di fronte agli occhi di tutti. Allora ecco questo ritorno di attenzione alla particolarità, compresa questa particolarità, comprese le comunità locali, e se questo processo fosse stato visto in tempo, diciamo magari una quindicina d'anni fa, non dico tanto tempo fa, forse alcuni fenomeni ventrali del rancoroso ventralismo locale, parlo della Lega Nord, a cui abbiamo assistito, forse o non ci sarebbero stati, o avrebbero avuto altro segno, o quantomeno avrebbero avuto altra astensione. Ma io credo che storia e politica non si fanno con ma con sé. Oggi abbiamo una straordinaria opportunità. Dentro il progetto Critical Wine sono stati citati almeno tre strumenti che altre poi organizzazioni, si ricordava la CIA, si ricordava Confederazione Italiana Agricoltori, ovviamente, si ricordavano tre almeno cose: un catalogo dei produttori che riguarda questo progetto, le denominazioni comunali, il prezzo sorgente. Allora io credo che ci sia non soltanto un agire in sinergia di queste tre cose, ma ci sia anche una scaletta temporale, un catalogo dei produttori con quei criteri che questo progetto sta identificando insieme a tanti produttori in Italia, e quindi è una forma di autoproduzione di criteri, è una coproduzione di criteri e di trasparenza. Le denominazioni comunali, prezzo sorgente. Io credo che il prezzo sorgente sia l'ultimo pezzo di questo discorso, una sfida, un pezzo di percorso, quasi un problema senza soluzione. sarà, voglio dire, strada facendo che si verificherà la possibilità o meno di realizzarlo. Il punto che io, forse anche così, con un po' di attenzione sulle amministrazioni locali, vorrei sollecitarvi stasera, lo faccio velocemente, è quello delle denominazioni comunali. Questi certificati di origine, perché di questo si tratta, che hanno un carattere comunitario, si dice comunale ma si potrebbe leggere comunitario. È uno straordinario strumento che gli 8.000 comuni italiani hanno nelle mani per valorizzare le proprie produzioni, i propri prodotti tipici, le proprie comunità, le proprie relazioni sociali. È uno strumento, non casualmente, che trova molte resistenze. Esistono in questo paese lobby potenti che guardano a questa possibilità data in mano ai comuni di come fumo negli occhi. Ecco, credo che questa sia una strada che deve essere percorsa fino in fondo, su cui c'è grandissima attenzione a destra come a sinistra. Non è caso che il ministro Alemanno, insomma, in qualche modo blocchi da un lato e guardi con attenzione dall'altra. E allora qui si parlava su più piani, ricorso alla parola legislazione, modificazioni sul prezzo sorgente, c'è una proposta di legge. Le DECO credo che possono diventare, stiamo parlando del 2006, possono diventare uno di quegli elementi di battaglia politica che qualificano un programma di governo su alcune vicende, speriamo un governo diverso dall'attuale, ma lo qualificano profondamente. Sciogliere nel 2006, dal 2006 in poi, i nodi della normativa europea che in qualche modo impastoiano le DECO e lavorare sulla normativa nazionale, perché sia data l'opportunità alle comunità locali e ai comuni in particolare di procedere in questa direzione, di valorizzare se stessi e altro. Devo dire con un po' di inquietudine che anche in questa campagna elettorale che ci avvicina alle regionali dei primi di aprile, e non sono qua a sponsorizzare nessuno, vedo però una certa disattenzione, la vedo su molti temi. Questo è un tema che praticamente non compare neanche. Certo, è vero, ci veniva ricordato precedentemente, la popolazione in agricoltura diminuisce costantemente, c'è un'evidenza empirica che chiamano legge, la legge di Colin Clark, su cui anche la sinistra ha teorizzato quali fossero i soggetti della trasformazione. È vero, la popolazione è decrescente, le imprese agricole decrescono, eppure questa Lombardia è ancora una terra con forti vocazioni agricole, forti produzioni locali, forti capacità di esperimenti innovativi di quella, diciamo, coproduzione che veniva prima ricordata fra il consumo e la produzione. Questo io credo sia uno degli elementi forti dell'esperienza di Critical Wine, di alcune esperienze evolute, come quella che ci veniva riportata anche poc'anzi, di come produzione e consumo possono essere un volano forte e importante. Certo, qui siamo in un territorio che ancora delle produzioni agricole, ancora degli elementi che possono essere valorizzati dalle denominazioni comunali, è un terreno ancora avvocato. A Milano, certo, in Consiglio Comunale abbiamo presentato anche noi una proposta che riguarda le DECO. Ditemi voi cosa si produce a Milano, forse il panettone, non mi risulta che ci sia molto altro, purtroppo, su questo terreno. In un territorio che si sta antropizzando, veniva ricordato da Paolo nell'introduzione, però non vado molto su questo, ho già parlato abbastanza. Milano ha rilasciato 500.000 di abitanti dal 75 in poi, dove sono finiti lo vedete anche voi, non è casuale questa erosione, anche se non è detto propriamente erosione, dei territori, questa progressiva antropizzazione della provincia che si nutre anche delle grandi infrastrutture sulla cui necessarietà io credo ci sia moltissimo da discutere, se non sia invece un problema generale di sviluppo, un altro sviluppo, le DECO, il catalogo dei produttori, il prezzo sorgente, l'idea della contadinità, gli esperimenti innovativi di produzione e consumo sono dei pezzettini, io penso, non so, di un programma generale che consente dentro questa battaglia di star dentro a chi produce e chi consuma, a centri sociali metropolitani, a cooperative di consumatori, a gruppi di autoaiuto, di autoacquisto, forme insomma di autodifesa rispetto a quanto sta generalmente accadendo. Torno e chiudo sul 2006. Il contadino pazzo del Kentucky a un certo punto scrive: non vi fidate del governo, non vi fidate di nessun governo. Ha pienamente ragione. Anche nel 2006, anche nella migliore delle ipotesi, credo che ci vorranno parecchi calci in culo, perché questa sia la direzione su questi temi che si deve prendere e si può prendere. Ed ecco che arriviamo noi. Io credo, penso, che siamo qua e in tanti luoghi per fortuna per questo, non dico per tirare calci in culo, ma per sospingere in questa decisamente movimenti vari, soggetti, singoli, in questa prospettiva. Grazie a voi.